Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. State ascoltando Restiamo Animali, una trasmissione, come ci piace dire, per vivere, pensare e agire cruelty free, o anche se preferite, per una società non violenta. Questa è la puntata numero 459, nella quale parleremo di una Roma marziana, stilisti depilati, ripensamenti asiatici e tasse polpose. Speriamo di avervi incuriositi. Aprire questa puntata registrando un altro morto per caccia. Sabato 10 novembre, Fulvio Ceccanti, 63 anni, pensionato, residente a Bientina, in provincia di Pisa, sposato con due figli, è morto nel bosco accanto al suo fucile mentre i compagni di caccia tentavano inutilmente di rianimarlo. È l'ottava vittima dall'apertura della stagione venatoria 2018. A sparare è stato un suo caro amico, Luca Fornai, 64 anni, anche lui pensionato, che partecipava insieme alla vittima e a diversi altri cacciatori a una battuta al cinghiale nelle campagne di Palaia, nel Pisano. Ho sparato tre colpi, convinto di centrare un cinghiale che avevamo appena stanato. Ha raccontato questo l'uomo disperato, ancora sotto shock, ai carabinieri. Fornai è stato indagato per omicidio colposo, un'altra morte evitabile se, come proposto dal ministro dell'Ambiente Costa dopo il primo morto della stagione di quest'anno, si fosse deciso di chiudere la caccia, almeno nel fine settimana. Take her home, that's understood. Jean-Paul Gaultier, l'enfant terrible dell'alta moda francese, ha annunciato la sua decisione di rinunciare all'utilizzo di pellicce nelle sue collezioni, unendosi a molti altri stilisti che ne hanno già bandito l'utilizzo. L'annuncio è arrivato al grande pubblico in un'intervista TV nella quale Gaultier descrive i metodi di uccisione degli animali come assolutamente deplorevoli. Una pelliccia vera è molto più sensuale di una finta, ma si possono trovare altri modi per stare caldi, ha aggiunto il gruppo animalista PETA, che ha accolto la notizia definendola un segno dei tempi. La maggioranza delle persone non vuole avere più niente a che fare con oggetti che derivano da animali che sono stati catturati, picchiati o folgorati a morte, ha dichiarato questo il direttore di PETA, Mimi Bekeki. Anche Armani e Versace, prima di Gaultier, hanno deciso di rinunciare alle pellicce. Anche Ralph Lauren, Vivienne Westwood e Stella McCartney hanno optato per pellicce finte. Il principale gruppo animalista francese, SPA, ha dichiarato di sperare che l'esempio di Jean-Paul Gaultier venga seguito presto da altri stilisti e altre case di moda. C'è di più diverso da noi umani? Verrebbe da dire i non umani. Ma la risposta è sbagliata. I più diversi da noi umani sono i marziani. Nessun rappresentante dei non umani potrà mai essere così spiazzante, altrettanto provocatorio, quanto un marziano venuto da un universo di cui non sappiamo niente, che sta lì a rivelarci che non siamo al centro dell'universo, che ci sono altri universi competenti ed evoluti se sono loro a trovare noi e non viceversa. È di un marziano che parla Decore, l'antologia di novelle grafiche uscita a maggio 2018 per i tipi di Edizioni Il Galeone. Perché una trasmissione che solitamente parla di animali si interessa di marziani, ce lo spiega il servizio della nostra corrispondente da Roma, Francesca De Matteis. Da pochi giorni è stato pubblicato Decore, il marziano è vivo e lotta insieme a noi, edizioni Il Galeone, un'antologia di 8 fumetti inediti realizzati da 8 artisti. Il fumetto più attuale e universale che mai, siamo in una Roma ai margini, che ha dimenticato le proprie origini, che non tollera più, che sembra aver perso la sua carica di accoglienza popolare, di mutuo aiuto e solidarietà, e che appare assolutamente respingente e intollerante. Una favola sulla diversità, la rivisitazione in chiave moderna di un marziano a Roma, di Ennio Flaiano. E in questa graphic novel c'è anche un marziano animale, il diverso per eccellenza, la cui storia è disegnata e raccontata da Claudia Romagnoli, in arte croma, attivista, femminista, ciclista, artista e antispecista. Sentiamo. Questa graphic novel è un insieme appunto di storie che raccontano tutte l'esperienza di un marziano che vaga per le periferie di Roma. E il marziano è l'altro, è quello che noi vediamo distante da noi, è quello che non tolleriamo, è quello che discriminiamo. E nella mia storia in particolare il marziano ha un incontro super speciale, che è con una mucca che si chiama Advena, che dal latino è, come dire, in fuga, è una straniera e in fuga. E questo incontro avviene in una delle periferie, che è quella del Quarticciolo, e la nostra Advena è scappata da un centro carni, il centro carni di via Palmiro Togliatti, e sono entrambi due personaggi spersi e dispersi in questo mondo nuovo per loro, e entrambi vivono varie situazioni di discriminazioni, perché entrambi fanno parte di una specie a noi aliena in tutti i sensi, specie altre che vengono non considerate, o se considerate in modo assolutamente malevolo. E quindi c'è questo incontro casuale tra queste due marginalità, che diventa invece un incontro fertile e produttivo. Quindi entrambi, la mucca e il marziano, trovano un terreno di unione e un modo insieme per liberarsi ognuno dalle proprie oppressioni. Non vi rivelo, insomma, la fine della storia, ma appunto questo incontro è un po' un risolutore di una serie di difficoltà che vivono nel mondo umano. La mia protagonista, la mia Advena, mette proprio in atto un processo suo stesso di conoscenza, attraverso appunto la conoscenza del mondo umano, essendo scappata appunto da poco da un centro sempre chiuso, che è il centro carni, dove era appunto torturata e sfruttata, e si imbatte in un mondo terribile, si imbatte in una macelleria dove vede appunto i suoi fratelli e le sue sorelle esposti e fatti a pezzi, e vede un mondo dove non trova acqua per bere e erba da mangiare, e quindi, come dire, un processo proprio suo in qualche modo di consapevolezza. E l'incontro col marziano e con una collettività le permette di fare proprio delle scelte mature, tanto che poi alla fine appunto sceglierà di aggregarsi a tutta un'altra serie appunto di mucche ribelli, e quindi sì, è un processo forte il suo, come dire, proprio di consapevolezza, di osservazione e di consapevolezza, quindi è lei che si autodetermina nella sua scelta fino alla fine. Vuoi lasciare i tuoi riferimenti? Certo, volentieri. Allora, c'è un blog che si chiama claudioromagnoli.blogspot.it, e mi trovate anche su Facebook come Claudio Romagnoli, Croma, su Instagram, tutte quelle cose che adesso sono indispensabili. Francesca De Matteis per Restiamo Animali, Roma. D'Azur et Saint-Tropez, Tour de France, Tour de France, Alpes et les Pyrénées, Tour de France, Tour de France, dernière étape Champs-Élysées, Tour de France, Tour de France. D'aller en grand braqué, Tour de France, Tour de France, sprint final à l'arrivée, Tour de France, Tour de France. La carne rossa per ridurne il consumo e per compensare il costo sociale delle malattie da esso provocate. È quanto propone una ricerca dell'Università di Oxford pubblicata sulla rivista PLOS ONE. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato nel 2015 che la carne rossa lavorata è cancerogena e quella non lavorata potenzialmente cancerogena. Lo studio parte dal presupposto che il consumo di carne rossa può portare a cancro, malattie cardiache e diabete, che la cura di queste malattie rappresenta un costo per la società e che una tassa compenserebbe questi costi sociali e farebbe calare il consumo. La ricerca sostiene che le malattie legate alle carni rosse costano 285 miliardi di dollari all'anno nel mondo. Viene quindi proposta un'imposta del 20% sulla carne non lavorata, come per esempio le bistecche, e una del 110% su quella lavorata, come per esempio gli insaccati, le salsicce e la pancetta. La misura raccoglierebbe 170 miliardi di dollari all'anno nel mondo e farebbe risparmiare 41 miliardi di dollari annui in cure mediche. In pratica si eliminerebbe o si compenserebbe il 70% dei costi sanitari dovuti alle carni rosse e si eviterebbero 220.000 decessi all'anno. Il consumo medio di carne sarebbe ridotto di 2 porzioni alla settimana. Attualmente nei paesi ricchi la media è di 1 porzione al giorno. Il consumo di carni rosse lavorate calerebbe quindi del 16%. Nel settembre scorso l'Assemblea dell'ONU, su pressione anche dell'Italia, aveva approvato un documento in cui si afferma che non esistono cibi sani o insalubri, bensì diete sane o insalubri. A novembre però 7 paesi, tra i quali la Francia, hanno presentato un progetto di risoluzione ONU che esorta gli stati membri ad adottare politiche fiscali e regolatorie verso cibi e bevande insalubri. Diretti Italia si mette di traverso e dice no alla tassa sulla carne che colpirebbe il 93% degli italiani. Con il 93% degli italiani che consuma carne è inaccettabile la proposta di una tassa per scoraggiare gli acquisti in un momento di difficoltà economica. È quanto afferma la Coldiretti nel commentare la ricerca dell'Università di Oxford pubblicata sulla rivista PLOS ONE. Un corretto regime alimentare, sostiene la Coldiretti, si fonda sull'equilibrio nutrizionale tra i diversi cibi consumati e non va ricercato sullo specifico prodotto. Non esistono cibi sani o insalubri, ma solo diete più o meno sane. Quanto al consumo medio annuo in Italia di carne, pollo, suino, bovino, ovino, ricorda la Coldiretti, è sceso a 79 kg pro capite, tra i più bassi in Europa. I danesi infatti sono a 109,8 kg, i portoghesi a 101 kg, gli spagnoli a 99,5 kg, i francesi e i tedeschi a 85,8 e 86 kg. I benefici per la salute e per la comunità non sembrano essere presi in considerazione da Coldiretti. Dei benefici in termini di riduzione della violenza non fa cenno nessuno. Gli animali sono tutt'oggi considerati solo un pasto. Redazione di Restiamo Animali, rinunciamo a mangiare carne e derivati animali a prescindere dalla questione fiscale. Sentiamo che ricetta ci propone questa settimana il nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni all'interno della rubrica dedicata alla cucina cruelty free, il pasto gentile. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. La ricetta di questa settimana segue il tema artistico e rende omaggio al padre della pop art, Andy Warhol, e la sua opera Campbell Soup Can. E anche la ricetta si ispira alla pop art, quindi non sarà una comune zuppa di pomodoro. Infatti ecco a voi la ricetta della Warhol Peanut and Tomato Soup. Gli ingredienti per 4 persone sono 1 litro di brodo vegetale, un porro, 100 g di arachidi tostate, 150 g di passata di pomodoro, un cucchiaio di amido di mais, un cucchiaio di farina di riso, del coriandolo fresco, sale e pepe e olio extravergine di oliva. Per prima cosa mettete in ammollo le arachidi tostate in 1 litro di brodo vegetale caldo e lasciate raffreddare. Nel frattempo tagliate il porro a rondelle e lavatelo in acqua. Vi consiglio di lavarlo dopo averlo tagliato, così da eliminare eventuale terra contenuta all'interno. Fate scottare il porro in un tegame con poca acqua e quando questa sarà evaporata fate soffriggere per pochi minuti con dell'olio extravergine e del coriandolo fresco. Aggiungete il pomodoro passato, aggiustate di sale e pepe e lasciate ritirare a fuoco lento. Tritate molto finemente le arachidi nel brodo con un frullatore ad immersione, fino a ridurle in crema. Stemperate la farina di riso e l'amido di mais con questo liquido e versate tutto nella zuppa. Lasciate ritirare ancora a fuoco lento, quindi servite con del coriandolo fresco tritato finemente e della granella di arachidi tostate. Per un tocco pop, servite la zuppa in lattine per alimenti. Dedichiamo un piccolo spazio ai Devo, un gruppo musicale statunitense formatosi nel 1972 ad Akron in Ohio. Devo sta per Devolution, quindi devoluzione, ovvero la teoria secondo cui l'umanità, invece che continuare ad evolversi, avrebbe cominciato a regredire, come dimostrerebbero le disfunzioni e la mentalità gretta della società americana. Così scrivevano i Devo. Argomento tuttora molto in voga, molti nell'ambito della musica rock li hanno adorati, come Neil Young, David Bowie e, non ultimo, David Byrne, che li ha anche prodotti. E loro comunque, nel modo di fare musica e di cantare, rievocano molto lo stile e la voce del leader dei Talking Heads. Dalla discografia sentiamo una cover di Satisfaction dei Rolling Stones, con un brano Abbiamo fatto la storia della musica rock. We'll be right back. sorpresa della Cina, che a dispetto degli annunci che erano circolati, ha deciso di mantenere il divieto di utilizzare parti di tigre e di corno di rinoceronte per il commercio di oggetti di antiquariato e per la medicina tradizionale. La possibile legalizzazione del commercio è stata quindi rinviata. La Cina aveva annunciato la legalizzazione sia dell'uso di parti di tigre e del corno di rinoceronte prelevati da animali allevati in cattività, sia il commercio interno di oggetti antichi ricavati da queste due specie che sono a rischio estinzione. Il WWF aveva invitato il governo a mantenere il divieto e ora accoglie molto favorevolmente la notizia del rinvio dello stop. Ma è evidente che il business dell'avorio e dei farmaci tradizionali è molto grande, molto consistente e le spinte delle lobby interessate sono fortissime. Per quanto tempo ancora la Cina resisterà alla tentazione, lo scopriremo solo vivendo. Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang screwed up eyes and screw down hairdo, like some cat from Japan. E siamo in chiusura. Vi saluta la nostra redazione al completo, composta da Elisa Moretti, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e da Camilla Lattanzi, che vi tiene compagnia con la sua voce durante questi viaggi. L'appuntamento con la puntata numero 460 della trasmissione Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.